5 qua, forse dipende da Claudio. Ciao belli be. Cava cava, ciao Marco. Già va bene, già va bene. La modulazione non è pulitissima, tutto lì già. Peggio. Cosa? Peggio già. Ci è avuto un attimo di come è basso e salto. Ma sono stabili i contatti, gli spezzoni, sì. Uno l'ho cambiato perché mi stava facendo difetto. Sono quel cacchio di spinotti maledetti che vendono qua. Va bene, riprendi Claudio, io qua sono avendo affarato, sto preparando la differenziata, cambiando la sabbia gatti, più un fianco. Questi animali sono un po', sì, belli, ma un po' una rottura di palle. Vai Claudio. A me mi sta venendo l'Alzheimer di comprarmi il pappagallo che parla, Cenerito. Devo regolare lo smitter o su Marco o su te. No, così non ci riesco. L'avevo abbassato troppo. Sì, sì, è colpa mia. Adesso siete tutte e due, però non riesco a mettere a Marco sul più del 3. Perché parla, capito? Cosa devo attaccare? Il Galaxy? Per sapere più o meno come arrivo di segnale. Tu cosa c'hai? Cosa c'hai memorizzato? Il Galaxy come arrivo io? No, già. Lo faccio col Chemode, sì, 923, so. Poco più di 920, sì, dai. Cava cava. Oh Claudio, le mie condizioni di lavoro sono le solite. Quindi ti puoi basare su di me. Io sono con i soliti 3 watt reali. Le solite condizioni di lavoro. Quindi se sai che sul K 9 più 30 lo metti uguale, insomma, vedi tu, dai, se serve, se la portante la lascio. Non modulata però. Io adesso sono liscio solo, Marco. Non sono attaccato a niente, sono proprio liscio. Aspetta, metti la portante, Marco. Ecco. Solite condizioni di lavoro, le solite, 3 watt e boh. Dimmi se basta. Tanto non devi parlare, che mi fai picchi modulazione. Ok. Ok, vai già. Prova a vedere. Perfetto, a posto. Adesso sto arrivando a 9.23. Sì, sì, leggermente oltre, ma leggero sul più del 20, dai. Mentre Marco è sul 3, come gli altri radio. Addirittura picchi di modulazione mi dà. Pensa che stavo parlando a 10 cm, così, basso. Picchi di modulazione non me lo sarei aspettato da questo, pure omologato. Pensa se gli apri la modulazione. E invece così, Claudio, attaccato come ti arrivo? Guarda Marco, te l'ho detto, tu qua fai da 9.20 a 9.30, sei perfetto. Ti ha pagato. Va bene. Cazzo, sono cacciottato, Santiago, ho detto cosa cazzo ho fatto. Invece avevo regolato male, dai. Ok, adesso è perfetto come le noite, come tutti gli altri. Adesso lo chiudo. La mia radio va bene, sì? Sì, sì, perfetto. Ascolta, ma... cosa ti volevo dire, ma non stai facendo tu questo nuovo? Sì, sì, ne ho dato la foto Gianni. Ha un trimerino in fondo dove c'è l'attacco del PL, tanto ce n'è uno solo. Mi ha detto aprilo, mettilo a testa a terra, vai in fondo, c'è un trimerino solo, segnatelo prima come l'ho messo io, e poi te lo metti come vuoi tu, capito? Perché lui l'aveva aumentato, perché aveva i segnali bassi, però non lo posso portare lì a regolare a muro, se lo devo regolare con la mia antenna. Appunto. Già va bene così, Claudio. Perfetto, no, sei perfetto già, tu sei sull'inuiti, sei sul più del 9+20 e qua sei sul più 9+20. Qua l'attacchi vai sul 3 come Marco, perché Marco fa da 30 a 40, mentre tu fai da 20 a 30. Capagava. Perfetto, adesso non c'è più niente da fare in questa radio, adesso la chiudo ed è perfetta, ci sentiamo tra un attimo. Eia, ma stai andando a prendere l'aria? No, l'aria oggi no, ha lavorato, è uscita alle 3, ha fatto l'apertura oggi, e noi tocca sempre lì a fare la chiusura, ci devono tornare un po' tra di loro. Uscita alle 3, non c'è, è uscita, rientrerà l'ora di cena, è in giro col ragazzo a fare compere. Quanti sono al bar? 2? 4, il bar si chiama 4.0, sono 4 soci, 2 ragazze e 2 ragazzi, sono 2 colleghe, Ilaria e un'altra ragazza che lavorava al Mechirona, un ragazzo e un altro ragazzo che lavorava al Taibet. Ah ecco, siamo messi d'accordo e hanno fatto questa società, ho capito. Sì, momentaneamente ce l'hanno in gestione e poi vediamo dopo il Covid cosa succede, perché lei c'ha il suo progetto, quindi per il momento è così. Vediamo dopo questo Covid. Hai sentito l'ultimo di PCM? Sì. 24, 25, 26, 27, 28. 10 giorni chiusi. Lockdown totale, la mazza che ne varia. Ma anche per noi, cioè anche per l'uscita da casa. Tutta l'Italia zona rossa. 24, 25, 26, 27, 28. Cino, non mi ricordo se al 4, boh, una cosa del genere. Un casino, lockdown totale, Italia rossa, tutto rosso, non si può uscire, come abbiamo fatto a marzo, per 10 giorni. Finché sei riuscito quello stronzo? Sì, sì, sì, ristoranti e bar tutti chiusi, solo i negozi di abbigliamento aperti, centri commerciali, bar, ristoranti, solo i negozi di abbigliamento, basta. Non so se prima dell'Epifania o se no l'Epifania rosso, non me ricordo. Ma noi possiamo uscire da casa, sino alle 22 possiamo uscire così. Cazzo, ti ha aggiunto un lockdown totale, cosa vuol dire totale? Totale, dal 24 in poi. Adesso puoi uscire sino alle 24 o sino alle 10. Dopo non puoi uscire per niente, neanche di mattina, lockdown totale. Vabbè. Cara, cosa li lascia là per ti a fare i negozi, scusa, se uno non può uscire, boh, mi sembra una cosa strana. No, già avete lì che aveva un casino unito, ci sono già le proteste, un bordello nero, c'è, non so già. Dai, fatemi chiudere questa radio, riprendi Marco. Sì, adesso me lo leggo online, vediamo. Tutte le regole, mamma mia, mamma dei turchi. Adesso me lo leggo con calma, dai. Leggi. E vabbè, tanto io... E il 21 e il 23 a me mi servono liberi, poi il resto non mi danno di nulla. Mi faccio la spesa e me ne resto a casa, che problemi ci sono? Ma io quando ho capito c'era mezzo Sassari che voleva andare dai parenti il 24 sera, no? Andare prima delle 10, prima del blocco notturno, dormire lì e farsi il 25 a Natale, mezzo Sassari, l'ho sentito dire. Adesso non si potrà fare se è proprio zona rossa, che frutti dura. E tu credi che Conte se ne sia da solo, triste, col piattino, a Natale, quello ci avrà parenti e amici portati da voli di Stato, dalle scorte di Stato, roba di casta, di mafia, ciu. Bisogna fare una spesa grossa, comprare un po' di roba da mangiare e via, cosa devi fare? Più che così non si può fare. Sì, aspetta, linea dura, tutta l'Italia in zona rossa, quindi dal 24 dicembre al 6 gennaio, zona rossa, come aprile, porca pupazza. Vabbè, da leggere poi la gazzetta ufficiale meglio, e qua i giornalisti sono tutti, la girano come vogliono. Vedi, niente, due congiunti devono essere conviventi, se no non va bene, e appellare in culo. Bel Natale, da suicidio. Io mi sapono già il cappio, Vai Claudio. No, sta chiedendo la radio, ascolta. Ma praticamente sino al 6 gennaio mi hai detto. Già, io consiglio di leggere la gazzetta ufficiale se è uscito, o appena esce di guardarlo sulla gazzetta, perché qua i giornalisti sono un po' pasticcioni, leggi un sito, leggi un altro, si capisce mezzo in uno, mezzo nell'altro sito, quindi basati sulla gazzetta ufficiale, non so se esce, se è già uscita, vabbè. E alle 8 guardiamo tutto, io ti guardiamo. A fare la spesa non si può uscire qui. Allora, in breve, zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, quindi ci sono dei vuoti. Ci sono dei giorni tipo il 28, il 29, 30 e il 4 gennaio che sarà zona arancione, cioè come adesso credo. È una bella rogna, non puoi nemmeno fare il furbo, fanculo, vabbè, pazienza. Dai, vi devo lasciare, che devo cambiare la sabbiegata e preparare questa valetta di ferie, se no poi mi viene a grè, una volta mangiato poi non ho più voglia e devo rimandare a domani. Claudio, l'hai chiusa la radio? Vai, riprendi tu. No, Claudio, non riprende, vabbè Marco, vai, fai quello che devi fare, già detto di sì. Comunque, non so che dire, pure non è che si può portare, cioè c'è il frigorifero pieno di roba, se non dimmi la bomba. Già comprato agnello, gamberoni, tutta la roba per Natale, per festeggiare, un ugato. Vabbè, ma tanto in tutta Europa si stanno orientando lì, capito, quel tipo di cose. Oh, non che io abbia nulla a festeggiare, già lo sai, io sono anche poco credente per il Natale, per me Natale è un giorno o un altro, Capodanno non ne parliamo, ma era per riunirsi almeno con i parenti serpenti, però ci si tolle la vicenda, si mangia assieme, si gioca a carte, cosa ne so, vabbè, invece manco quello. Bene, cuore bianco per me, ciao Claudio, ciao. Claudio, chiuso là questo apparecchio. Oh, là, attenzione ai canali 10, c'è qualcuno. Mi sembrato di vedere un gatto. Eccovi qua. Hai fatto, Claudio? Ehi, ho chiuso, gli ho rotto la rimbalza, che di quelle a carrello, a chiuderla, allora. Ah, ecco. Ho capito com'era, ce l'ho avuta anch'io una così. Mamma mia, ho paura di graffiarla, porca miseria, ho dovuto mettere un panno, mettermi dall'alto, infilarla, perché c'ha le viti tutte dietro, capito? Il cassone è libero, non c'ha manco una vite, che palle, oh. E a scorrimento, e da, ho capito, e una voglia va bene comunque, la radio è buona, ma quella lì l'aveva riverniciata Gianni, così. Eh sì, gli aveva fatto il colore suo, là. Era bianca, era brutta, ti ricordi? Sì, infatti non me la ricordo che era bianca. No, adesso il colore è bello. Il colore era 48? Sì, sul celestino. Sì, colore era 48. Colore era 48, quello quale suo colore? No, bianca era, l'originale era bianca, ce l'aveva anche Agostino, Ago, te lo ricordi Ago? Ma bianca non mi piace dire, ma... ma è l'originale era bianca, vabbè, comunque... Vabbè, infatti bianca non è, non a me mi piace tanto, come non mi piace il marrone. E a me per dire, c'è una radio, Lafayette... quello che ti segna, quello che c'aveva anche Roberto Meccanico, che non mi ricordo come si chiama, quello lì è marrone. Se non fosse stato marrone, cazzo, mi sarebbe piaciuto un mondo, perché c'ha le manopole grandi, è bellissimo, è enorme come apparecchio, per macchina però grandissimo. C'è un cazzo, uno come te che è una vendicciata di milli, cosa c'entra? Io il pace non lo posso toccare, il pace è in ferro ed è marrone. Ma quando noi andiamo a verniciare quel tipo di radio, non va bene già, capito? Perché se un domani arrivi a prendere, devi dare a un collezionista, non te la compra, quello li vogliono lasciati originali. Ma infatti, no, ma quello lì è più bello che bianca, per l'originale è bianca. Io l'ho conosciuta così con la radio, ce l'ho conosciuta ad Agostino io. Se l'ha venduta, se no me l'avrebbe data a me. Se l'aveva appena venduta quando gliel'ho chiesto. Se me lo dicevi, comunque c'ho l'antenna, mi ha detto. Se vuoi l'antenna ce l'ho in garage, ancora non l'ho piazzata. La Grand Prix, gliel'ho comprata. Me l'ha dato una cazzata, senza nemmeno aprire. Me l'ha dato una cazzata, 15 euro, una cosa del genere, me l'ho venuta a 40 euro. Non me l'ho più mai piazzata. Ah, io ho capito, ho capito. No, vabbè, questo bisogna lasciarle originali, già, se no a lui non... Se vai a venderle, vabbè, questo è il colore della La 48 più o meno, io ce l'ho, l'ho messo vicino, insomma, vabbè. Ma il pace è nato così, il pace lo conoscono tutti, il cassone in ferro del marrone. Non lo posso toccare già. Anche a me non è che sia molto, però è bella così, bella così, anche quella c'è la manopolone grande, capito? Se no casino. Va bene, dai. Ottimo per la truppa, mi interessava lo smitter perché Roberto quando schiacciava non inchiodava a fondo scala, lo rompe. Adesso dovrebbe arrivare sul DB, come tutte le radio. Tu sei a posto, quindi regolato con il vostro segnale, dai. Ma la radio è sempre buona, Claudio. Quando attacco sempre buona rimane. È un pochino te la smorta già, è più bella quando sei liscio. Devi trovare, te l'ho detto, un compromesso per far sì che non ci sia questa saturazione, capito? Sì, se l'ho abbassata, infatti l'ho messo a 3,5 volte, boh. È un bel strano, quando sei in macchina cazzo una bomba sa radio. Una bomba, non capisco perché a casa si comporti così. Ma molto sta saturando? Ehi, un bel saturato, un bel già. Adesso provo a abbassare, guarda così abbassando. Ma allora non avevi abbassato, abbassa ancora. Ecco, guarda, 1, 2, 3. Cioè, intanto il segnale non cambia, si fissa 9,30. Quindi, dati pochissimi watt, perché vuol dire che quella radio a casa ha bisogno di pochi watt. Tanto il segnale non cambia, amico, non è che ti abbassa il segnale, no. L'uscita deve essere quella, è l'ingresso che è troppo, capito? Troppo, se sono 3,5 volte l'ingresso, boh, è strano. Togli lì il mezzo, metti 3 watt, e già, così ti sto dicendo io, l'ho detto anche Marco. Mio. Capito mi hai, già va bene, comunque la lascia così, già si capisce la modulazione, fa niente. No, ma la voglio chiara la radio, capito, la voglio esca chiara. E così è chiara, lasciala stare così. Cava. Hola? Andave. Così va benissimo, alla grande. Oh, volevo chiedervi una cosa. Ho già, ma nonostante i watt di pilotaggio bassi, come mai satura? Se quello è a MOSFET, come il mio, non dovrebbe saturare, non... Non lo so. Non so cosa dirti, anche io penso che sia così, però non è così. Boh, adesso ve ne racconto una, no? Il 747 alias 203 funziona bene con tutti gli apparati, no? Esce limpido, basta dargli poco ingresso. Allora col President, con 3,5 watt che è la potenza minima, 3,5 watt, distorsione totale della modulazione, incapibile. ho ammassato il mic gain, niente da fare. Comunque l'apparato non funziona. Magie e misteri dell'etere, non so dirti il perché, non c'è una spiegazione logica. Però ti dico, vai Claudio, ci sono ma non ci sono, dai, sto facendo altro. Eppure anche quella è a MOSFET. Sì, ma con tutti gli apparecchi va, col presidente non va, saturazione, distorsione totale della modulazione, saturissimo, incapibile, boh, mistero, pilotaggio bassissimo, mic gain abbassato, non c'è spiegazione. Riprendi Claudio. Io ho questo MOSFET, allora io ho un B300, ok, che ho sempre collegato ai baracchini, non ho mai saturato, mai. Io vedo 3 watt e mezzo, 4 watt d'ingresso e lo posso portare sino alla sesta marcia. Non satura, non c'entra niente che sia un MOSFET e che non sia un MOSFET. Bisogna stabilire bene l'ingresso. Ci sono dei baracchini che hanno un eccitamento, un'eccitazione per quanto riguarda l'ingresso sublineare molto, molto forte e quindi te lo fa saturare. Ripeto, non cambia niente, perché Gianni può mettere anche a 2 watt d'ingresso, il segnale è sempre fermo a 9,30, adesso hai staccato, sì, 9,20, però poc'anzi, anche se tu mettevi a 2 watt e mezzo, il segnale è sempre 9,30 era, capito? Non cambia niente già. Adesso sì, tutto con reverbero. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come sta andando la radio? 1, 2, 3, 4, 5, sì. Sempre saturo, sì, sempre saturo. Quando attacchi le radio, che attacchi sono sature, sono sature. Boh, ma dentro ha regolazioni, questi cosi ne hanno regolazioni, per ottimizzare tutto, l'ingresso, l'impedenza, boh. Allora, adesso ti faccio un passaggio, guarda Marco, attento, guarda, aspetta un attimo, che mi organizzo, aspetta. Eia, orgasmizzati dai. Allora, ok, così io sono liscio, questa è un'altra radio, la radio sarà sempre uguale perché i microfoni sono tutti uguali. Questo è l'Elbex, ok? Questo è l'Elbex liscio, liscio. Attaccato all'Elbex c'è il B300 della ZG, così chiamato, grandi, grandi lineari del cacchio, ok? Adesso io attacco, ok? Ma mi allontano un attimo perché è distante, che non ci arrivo. Allora, così sono staccato, attento, Te ne accorgerai anche al segnale, guarda. Così sono attaccato, la radio è distorta, cos'è successo? Per me non è successo niente, la radio è sempre uguale. Sì, la mantiene pulita, la mantiene pulita. E io invece, guarda, con lo ZG B150 ho sempre avuto problemi. Sempre, che lo pilotassi con un watt, con 5 watt, sempre saturo usciva. Dava pure pochi watt, va. Come è da te Gianni? Quale? La tua? No, la sua è buona, però lo voglio sentire cambiando la marcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a vedere se satura da una marcia all'altra. Non satura, no, già, gli ho già fatte le prove e gli ho messo, siccome c'è la regolazione dei watt, c'ha 3 watt, neanche 3 watt, 3 watt scarsi. Se io lo metto a 5 watt mi satura, capito? Guarda. Così addirittura era già in quarta marcia, guarda, quarta marcia, quinta marcia, sesta marcia, questo è il massimo, ok, sta saturando? No, però non aumenta niente, da me è sempre lo stesso. E ti è arrivato, perché non serve a niente, quando tu lo lasci in quarta o in quinta marcia, eroga quei fatti lì e basta, capito? Va bene, io lo tengo sempre in seconda marcia, adesso in seconda marcia, giusto per dare qualche watt in più all'Elbex, anziché per dire alla massima potenza che ne dà 12, con la seconda marcia ne dà 25-30 watt, ma non satura, è tutto comandato dall'ingresso, capito? Tu più ingresso le dai, lui più ha assorbimento e più satura, e il segnale non cambia, visto che non cambia. E attenuando tutto, magari pochissimo ma cambia, magari un dB però cambia e... Sì, beh, se mi attenui già te ne accorgi, ma così no, perché già lui c'è al fondo scala, è già 9 più 30 il segnale, dove vuoi che vada, non va da nessuna parte, capito? però se attenui te ne accorgi gli scatti che li fa, lo fa al cambio. Però già per farti capire, adesso sono passato nuovamente col Midland, per farti capire che anche un B300, cioè un qualsiasi lineare della ZG che non è un MOSFET, se tu tieni in watt d'ingresso bassi hai una qualità di radio molto buona e il segnale non cambia, quello che ti deve aumentare ti aumenta, basta, non cambia niente già, capito? Noi siamo fissati, più ingresso le RAI e più watt eroga il lineare, può darsi pure che sia così, ma ti porta via la radio. Guarda così, gli ho chiusi tutti i watt del paracchino, del Galaxy, dai, li ho chiusi tutti. Guarda, ti faccio rispondere da Marco, non vorrei che sia io, ma ti ripeto, questa radio ha una ricezione fenomenale. Marco. Fammi vedere il segnale, Gianni. Guarda, li ho chiusi tutti i watt del Galaxy. Diciamo che lì la fase critica è quando metti la... a tutta potenza, ecco, per capirci, e proprio lì si mangia la radio, così è passabile già, cioè è passabilissima, non... problemi non ce n'è di comprensibilità, ma tu la stai usando per prova o per... perché stai usando il lineare in città? Così per provarlo solo? Beh, lo dovrò testare, no? Controlla adesso a vedere se la radio è buona, Marco. Sì, sì, la radio è buona. Ripeto, c'è un punto quando tu facevi le prove che eri molto più saturo, si mangiava tutta la radio. Capito già. Però così è passabile, è ottimo, è buona, non so che ti dica, anche attenuata è buona. L'importante è tenere il pilotaggio più basso possibile, in pochi barauli. E poi il segnale è sempre 9,25. Vabbè che questo smitter è... Comunque sì, vabbè, tieni tutto così. Puntella, metti l'attack, il blocco a filetti, non toccare nulla. Ascolta, adesso ho provato a aumentare un po' il watt dell'apparecchio, vediamo un pochettino. Poi la medisella. Sei sciatto, ciao. Sì, ciao Lu. Sì, appena appena ti sporca la lama, appenissima, appena appena. Sempre lì siamo già, meglio allora il passaggio precedente. Detto ciò, dai, stanno a buttare la differenziata. Ciao, quelli. Ciao Marco, sentiamo dopo. Sì, già, lascia i watt leggermente aperti, quasi chiusi, il segnale non cambia, sei sempre 9,30, perché vai da 20 a 30, e la radio va bene, ma se tu aumenti i watt te la porta via, te la distorce, capito? Ciao Lu, avanti. Come sta per i watt, distorce già. Ecco qua, vaffanculo. Aspetta un attimo. Andava, su. Ma dove sei, giù? Aspetta quel pochettino, guarda, è perfetta. Ma giù sei lui? E io. Sei a posto, tu sentiamo, stai arrivando, va bene, con picchi positivi. Scappa già, andava, sì. E si conferma, e si conferma, confermato. Capito hai già? Appena appena ragni è arrivato quando usi lineare, se devi usare il lineare, se no te lo tiri tutto aperto, come faccio io, quando io non uso il lineare sull'airbag, se le lascio tutta la potenza a 12 watt, poi c'è un punto di riferimento, ok, lo metto lì con l'attacco lineare e lui è a posto, e lì non ci bisogna lo smetterlo perché dà 3 watt, basta. Se no un casino, segnali alti e radio da schifo. No, io... Ora, già si muove sto cacchio. Va bene. Perfetto, Gianni Pedivella. E beh, Luca Maricugno. E beh, già. Via. Andrà bene, tutto ok. Adesso ho abbassato a 3 watt e mezzo. E va bene così già, segnale sempre 9,30 e la radio è buona, va bene. Non è come quando sei liscio, però va bene, molto bene. Ah, se non sono attaccato, sono liscio. Ah, sei liscio, prova. Non sono attaccato adesso. Se l'attacco cambia anche il segnale. Infatti, senza appicciti, sì, sul più del 20, va bene. 9 più 20, va bene, quando attacchi sei sul 3, sul 9 più 30. Luca è 9 come tutte di altre radio, va bene, ho picchi positivi, ottimo per la truppa. Cava cava, ok, ciao. Che era già questo? Sono qua a prendere il telefono, mi stavo ascoltando. Le 6:30. Io mi stavo guardando un po' gli animali, pappagalli, mezzi indiani, e mi sta vedendo il coso, sta prendendo un cielo che fa. Però grida, il problema è questo. Ciao, prendi quello di Luca, parla ma non grida. Ma quello lì oramai è strangolato. Sì, te la mi azzurro. No, il mio già non te lo posso dare perché io già pure. Oramai è anziano. Ecco, se lo fare c'è lo fumo. Non parla più, non canta, no, non fa più niente. Sempre drumito. Io oggi ho visto, da un allevatore ho visto degli uccelli particolari, cazzo, si chiamano passeri indiani. Poi ci sono le quaglie dell'Africa, non so che cosa, c'era un sacco di tipi di uccelli. E niente, sono andato così perché siamo amici. Ma lui li tiene in garage, sono un po' sacrificati quegli animali, anche se ci sono le graffe nei garage, sono sempre sacrificati. Ma sono come i miei alla luce in veranda, capito? Ma è tutti molti se... No, scusa, mi sono tanto attino perché non mi vuole. Sì, ti ho capito, li conosco, io guardo quel programma che danno dalle 2 qualcosa sino alle 2:30. Non so se Rai Movie, non mi ricordo, sì, forse sì, Rai Movie. Ma vabbè, io già ne ho abbastanza, per carità. Adesso sto guardando che è mio. C'è l'apicoltura, vedete? Molto bello anche questo programma, lo guardo sempre io questo. Svespa! Vespa? Chi presenta si chiama Svespa? Ma è Svespa. Isa. Io lo guardo da quando ero ragazzino quel programma, infatti lui se lo guardava anche mio suocero, i miei suoceri se lo guardava tutti e due. Oggi c'è il programma dell'apicoltura. Un po' di tutto c'è, animale, agricoltura, un po' di tutto. È bello. Allora poi documentari, questi fatti a modo di documentario mi piacciono tanto, mi piacciono quelli sugli animali, io mi guardo anche quello del lunedì su Rete 4, non so se l'hai visto, ci sono dei cani. La domenica non me la perdono, lo stesso con la canale 5 dei cani. Anch'io lo guardo quello. Diciamo che quando c'è la passione di sempre il programma. Vabbè, lo grido. Vero che è. Qua siamo, qua. Oh, ragazzi. Noto riposino stasera, sono tutto rincoglionito. Come mai non ti sei riposato? Dico, ho fatto riposino stasera, sono tutto rincoglionito. Ti sarai agganciato? Perché io tu sei quella cosa là? Cosa? Per quella cosa là ti sei deciso. Per quella cosa là che cosa? Che dovevi andare all'estero qua. Adesso vediamo, già non c'ho il gruzzoletto ancora. Ah, non ce l'hai tutta? No, magari. Quanto manca? Ne mancano qua, ne mancano. 2. Vabbè, se vuoi partire prima te anticipo io, non c'è problema. No, non voglio buffi qua, no, io su Udivi sì, e cazzo di rombi più, no. Già, piano piano, penso di farcela... volevo farlo per quest'estate, solo che vabbè, se tutto va bene è il prossimo anno, non quest'anno che viene, è il 2022. Come vuoi, vedi tu. No, cazzo bla. È un suicidio per me, no. C'è gente che lo fa, ma non sono di quelli io. Assolutamente, non ci riuscirei mai. Ma ok, ho un'entrata tanto quanto, ma l'entrata mia, sai qual è l'entrata mia, no? Oggi ci sono 50 euro, 60, 70, quando sono 30, poi io conservo tutto. Ah beh certo. Certo che è così. Gappa, avanti già. Mi hanno fatto i complimenti per questa radio, Ah, sai cosa? Scusa un attimo già, sai cosa è il problema? Le fregature. Perché non sai chi persone sono. Adesso per esempio fuori all'estero, questo qua mi ha ricontattato. Però c'è da dire che cazzo li conosce questi qua, ma li, che abbo di cazzo, una bomba, cazzo. Cioè magari mi dirò i soldi, cazzo, mi fottono questi. No, devi essere sicuro di quello che stai facendo, ne abbiamo già parlato, no? Devi essere sicuro, perché ti ripeto, vedi, anche Gianni, cito Gianni perché so che ha fatto l'impianto nuovo anche lui, ha speso una barca di soldi, però l'ha fatto qua, ed è tranquillo, è sicuro, può andare a controllo, può fare, qua una volta vai fuori e paghi, arrivederci e buon viaggio, o sbaglio già? Quello è, guarda, c'era un autista, Luca, che veniva da noi, e praticamente purtroppo si è preso un tumore al palato, e l'hanno dovuto operare, per operarlo gli hanno dovuto togliere tutti i denti, ce l'aveva tutti sani, gli hanno dovuto tutti togliere, è andato in Croazia a farsi rimettere. E dopo un annetto così li ballavano, è andato da un dentista di qua e gli hanno detto no, in classe li ha fatti ballare, la faccio rifare, io non tocco il lavoro degli altri, vado all'altro lo stesso. Poi uno glieli ha fatti, poi gli ha fatto pagare una barca di soldi, capito? Per, solo per arbitrarli queste viti e cose. Lo so, ma infatti mi ha detto questo qua che... come si dice, adesso non mi ricordo, vabbè, il posto esatto, e mi ha detto che se devo fare una pulizia la posso fare anche qua, ma se ho un problema più serio come cavolo faccio? E lì c'è un problema. Ma i dentisti qua si sentono offesi perché si va fuori a fare le cose, no? E si sentono quasi offesi e quindi per ripicca non te ne fanno, se ne trovi uno che te lo faceva del bagaglio di nana, capito? E quello è il problema, farli fuori. Se invece li fai qua, quando c'è qualche problema ti avvicini e ti aggiustano la studia, quello è il problema, che quando sei fuori ogni volta devi stare a partire, a fare. Poi dentisti, uso girosi uno che lavora dell'altro, io c'ho il mio, vabbè, non sto più facendo, però io vado a Docs Clinic qua, sono cliente loro, ogni 6 mesi faccio la pulizia dei denti, controllo, faccio, grazie a Dio, ce li ho tutti io, tutti i miei, capito, non ne ho messi male, però li curo tantissimo perché altrimenti è un casino, capito, però quando vai lì, casini sempre domandini, ma ha già fatto la pulizia dei denti? No, l'ultima l'ho fatta qua, controllate. Stanno sempre controllando, capito? Perché sono un bel gelosi. No, vabbè, anche io ce l'avevo tutti i miei, non ne avevo una guasta addirittura, mi è venuta la paralotite e mi sono scesi così, mi si sono indeboliti. Quella perché, già, quella viene perché si trascurano. Mia moglie ha avuto un problema del genere, fortunatamente non ne sono caduti, però ha fatto il curettage, li hanno tutti ripresi, adesso è a posto. C'ha un ponte davanti perché ne mancavano due e c'ha praticamente questa cosa qua, però per il resto è tutto a posto, altrimenti se non faceva il curettage li perdeva. Fai su burretta ci mi vado a pagare 230 euro. No, l'ho fatto anch'io, Claudio, non c'è stato nulla da fare, l'ho fatto anche il burettaggio. Addirittura mi hanno inciso le gengive per allargare, per pulire, perché i miei si sono, non c'è burettaggio che va, perché i miei si sono, si è cresciuto il tartaro nella radice, capito? Guarda, c'era il tartaro nella radice, quindi tu non lo vedevi nemmeno. Quello è il problema. Quello, no, io ho spazio elettrico, poi ho forcelle, forcelline, una giubbocca di goccia. Sto un quarto d'ora, 20 minuti, 70 giorni, mattina, pomeriggio, notte. È un casino, vabbè, comunque lui conta sino a 10 perché andare fuori per fare un impianto del genere, spendere quella cifra e poi non poter avere un'assistenza è un casino. Ghisu, siccome tutti me ne parlano di fuori, vai, poi dici di ritornare lì. Non è semplice, boh. Quello là, il primo che sono andato a fare la visita mi ha chiesto 14.000 euro. Ma ti ho detto, vai alla Dogs Clinic, lì a, di fronte al palazzetto dello sport. È una clinica quella, non è? Ci sono medici, io mangiando una noce ho spaccato un dente in due, ero disperato, ho detto cazzo no, se me lo tolgono. È un casino, sono andato, ho detto mi è successo un dramma. Che cosa gli è successo? Ho detto la bocca, mi ha detto ma aspetta, ci mette a spaccare le noci con i denti, e trovare un altro manzato ho fatto, per non perdere la schiaccia noci. Ho detto cosa è da togliere, è vero? No, lo togliamo, lo rifacciamo, dai. Ma l'ho rincapsulato, ce l'ho già due anni, ma ti dico Luca, guarda, sono troppo bravi, bravissimi, non bravi. Sì, sì, me lo metto in dubbio, ma qua sono troppo cari, non so che pagano le tasse. Però, boh, è un casino. Cioè, alla fine sì, risparmi un sacco di soldi, come hai detto tu, per fare una manutenzione, e poi è un casino. Non è assistenza, Luca, come ti ha detto Gianni, non è assistenza, capito? Se devi andare, devi andare lì, devi soggiornare, devi spendere altri quattrini, magari devi vattene bagare perché ti hanno fatto un altro piccolo interventino, non lo so, devi vedere tu. Se ce la fai ad aspettare lo fai qua, ce la biglia luci, però ti ripeto, l'Ox Clinic addirittura lo fanno anche rateizzato, se c'hai un grande lavoro da fare te lo fanno anche rateizzato, però devi avere la busta paga, capito? E tu busta paga non ne hai, quindi hai anche questo problema. Allora prova ad andarci a parlarci, anche se hai quello che hai come entrata, parlaci pure che te lo facciano. No, non te li vado di bussi, claro, poi. Ma le rigunisci tu tanto quanto, ma non ti fanno una cosa, no, cla, non è da me mettere in mezzo le persone per dire, ma io ti porto io, no, io devo essere sicuro di quello che faccio, che poi magari non ne ho, non entrate e non voglio metterci la faccia, sono sicurissimo, mi dispiace. Non mi stai dicendo niente, già ti conosco, quindi già lo so. Gappa gappa. Allora, mia moglie si serve, prima si serviva la Fuis, l'altro Fuis che è bravissimo, ma è caro della Breda. Poi ha scoperto questa doc clinic. E ti dico che si trova molto bene, non lo so. Io ci vado 6 volte, cioè una volta ogni 6 mesi. Avanti già. C'è anche vista quello di via Mendola. Anche lì sono molto bravi. Qui c'è una farmacia. No, ma lo so. Ma c'è anche Miniti Moro. Quelli sono giovani, Infatti sono andato da lui io. E mi ha fatto il preventivo di 7.007. Che me lo faceva per 7.005 mi pare, 7.003 se non mi ricordo. Ma devi vedere sempre il materiale, te l'ho scritto la cosa. Devi vedere sempre il materiale che ammettono. Non te lo fare in regina perché, ripeto, io ho un'amica che lavora dal dentista e mi ha detto Gianni non fartelo fare in regina perché anche se sono fissi poi si ingialliscono, diventano come quelli degli anziani, come le dentiere. Allora, questi qua sono in regina, ma una regina speciale. Se gli ha fatti un amico già, sono 7.000 euro lui però. Come si dice? Quanto a pace da sempre bianchi, poi nel caso che ci sono problemi vai da loro e ti risolvono il problema, non è che ti molano così. Luca, la resina si ingiallisce sempre, te l'ho detto a quella amica mia, anche a me mi ha detto che era una resina speciale, che non ingialliva, questa ricavetta non ridare retta, la resina si ingiallisce sempre, non esiste resina, la resina serve solo per mettere i denti postici o fare le dentiere, poi basta, non serve per altro. Sì, ma allora, dicono che la resina è più facile da ricostruire, mentre la ceramica no, la ceramica è tutto, devo staccare la protesi con la vitata, con la fissa, e ricostruire il dente, sempre se si può fare, molti dicono di sì, molti dicono di no, vabbè comunque io sono in contatto con questo siciliano, che ho visto anche su internet, c'hanno la clinica, praticamente lui è il padrone e i suoi dipendenti, no? Dice sono molto bravi e è un casino, è un casino, invece di là, tu pensi a quello là, dove era Marino? Se non mi ricordo, in Albania, sì, In Albania da 6.100 è sceso a 5.005, sì. Poi gli ho detto, siccome ho parlato proprio con un responsabile, a quanto pare questo qua è un responsabile, quello che fa proprio i lavori, a 5.005 è sceso a 5.050, che è altro, scendeva anche a 5.000, per dire, da 6.000, che erano rotti a 5.000, però dice, alla fine uno che scende di prezzo così, di botto, c'è qualcosa che non va sotto. Me, sento una cosa di bocca, non ti fidare, non ti fidare. È ghisso, è quello, ma comunque già, vediamo un po' là, le valvole pazienza e via, però piano. Ma infatti. Non ti buttare al primo che capita, è preferibile pagare qualcosa in più, ma vabbè, la foto ho fatto come ci deve, non te li mette in origine, allora poi te ne picchie. Guarda che per quella che ho parlato io, Claudio, è quella che lavora da Delfino, Simonetta, non so se tu la conosci. Ehi, Delfino, sì. Delfino è bravo, a me però voleva che mi mettessi la finanziaria, io non ho voluto mettere, perché molti, io ho parlato a Sassari, mi hanno detto mi da un tanto prima, poi il resto me lo dà a rate, io gli ho dato 5.000 euro in contanti, capito? Poi 500 euro al mese, mi hanno tolto fuori subito. Sì, la conosco, anche Gina Tempo è molto bravo a Portoise. Ehi, si vede la vacca che fa Gina Tempo, una volta stavo pescando, perché si è ormeggiato proprio dove c'è il rifornitore, te lo ricordo da andavo io, che c'è quel rifornitore, si è ormeggiato per rifornire, e che trovava una vacca che è allucinante, sta in legno, color legno, però tutto lucido, lucidato col trasparente, un bel bello. Oddio, tanto non abbia. Non ha di nacquarito, non è dentisti c'è un sacco di sciolti, non è buccia di gioco. Cazzo, perché lì c'ho 1200 euro di nata buccio? E io ho detto, ma quant'è che mi basta questa nata? Se non è andata, un ritorno e appena appena ne avanti. Sì, sembra così perché c'è un sacco di spese, non è così, no, un sacco di spese c'è. Casino. Certo che vanno, ritorna e ne la manda appena appena. Io lo so. Gappa gappa. Marcolino. Deve cambiare la sopra al gatto, la scusa fa mangiare. Ehi, infatti. Deve cambiare la sabbia al gatto. Oggi mi sono fatto l'ultimino con la piccola elettrica, esci due. Ehi, quanto ne facevo io quando andavo piano, ce l'avevo fuori, e avevo fatto anche il basamento per appoggiarla, ce l'ha presa fuori di quelle chiuse, quelle col tappo. Arrostivo parecchio, ma se secondo piano non si può fare niente qua. Io sono al terzo. E vabbè, ma in verata vita, non è fatto di odore, dai, non fa poco. E ho preso solo rosso, non è che ho preso nudella, ma ce n'era. C'era solo rosso, e adesso me lo faccio. Chiama a Marco, io Marco ci vieni a mangiare il dito. Oh papà, sto facendo lezione, sennò non è meglio, come faccio? Vabbè, dai, non lo butterà giù, non mi ha bisogno che ha buttato. È già buono rosso, mi piace un bel. No, beh, in campagna non lo facciamo. Mi pare che è finita la campagna. Però, Claudio, con la legge che ci ha mandato sapore, lì ci ha proprio. Camino, forno, c'è un'altra cosa, sì. Tu credi, tu dimino, la volta sai che non è male. Ma io dimino, lei l'ando macco. Non ando più macqua, preferisco di più un capocollo. Oh yeah! E il capocollo, pancetta, ma anche lo dimino a me piace. A me piacciono i riccioli, i canagù, mi piace quella roba lì. Anche il fegato mangio, mi piace anche il fegato, però deve essere corto poco. Cazzo già, mi avevi dato un messaggio da uno che conosce a Gira Tempo. Truffaldina Reddua, vorrei portare un dentista a cane morto, ha fregato un bel di gente, per lavori della barca, già giardinieri, muratori, siccani vuoi. No, da quella storia non lo conosco, io so che è un bravo artista, però. Comunque sono i migliori appoggiatori, sono Delfino che è molto bravo, io qua lo rifornivo, Delfino li portavo tovaglioni, li portavo bicchieri, no? Quelli che ti danno sciacquati la bocca, li portavo nei più cibi e li portavo anche la roba da mangiare perché ci trattenevano lì a mangiare perché non tornavano a casa, ci mangiavano panini, mezzini, capito? Li portavo la roba lì. E a Simonetta gliel'ho chiesto, con Simonetta c'ho una diversa confidenza, e mi ha detto, Gianni, ricordati una cosa, ti hanno detto che è una resina speciale, non esiste resina speciale, può essere più buona o meno buona, però la resina è tutta uguale, si diventa gialla. Lì da Vitalmente Vero mi hanno detto che praticamente la resina se la potevano ricostruire addosso senza smontarti nulla, invece la ceramica se si spacca te la devono togliere perché va messa in forno eccetera eccetera. A me quella ceramica mi si è rotta, dico la verità, e dopo un annetto così ho dovuto metterci 1000 euro io, 1000 euro io e 1000 euro il dentista, perché mi dice che io stringevo i denti di notte, invece non era vero, ma ho mangiato tu il dentino del bite che mi ha fatto mettere, io non ne ho mai messo, e questa dentina che mi ha messo adesso, questi denti che mi ha messo adesso, non metto un bite, non metto nulla, non c'è scritto l'acqua come l'altro. Te lo sto dicendo, ognuno fa le cose sue, dice fa, capito? Vabbè, questo mio altro massaggio lo conosce molto bene, quindi si è detto che brucia, adesso gli ha fatto lavori in barca, l'ha bruciato, e infatti così si fanno i soldi, è proprio vero, bruciando uno e l'altro, sai che dina chi fai. Quanti impianti ti hanno messo già? Quanti impianti ti hanno fatto? A me mi hanno messo quello di sopra, basta. E poi mi hanno messo la parte di giù, me l'hanno incapsulato, due denti, e basta tutto lì. Sì, ma quanti impianti ti hanno fatto su? Quattro. Due e due? Cosa? Due e due? Sì. E i pucchi? Allora ce l'ho so buono. No, alla fine non ci doveva fare sì, però la parte finale dell'osso era troppo fino e sarebbe dovuto essere di questo. Invece, mentre mi stavo operando, mi detto, non me l'ha sento la dottoressa, perché non me l'ha fatto lui, me l'ha fatto l'altra dottoressa donna. E praticamente mi ha detto, non me l'ha sento di farlo perché mentre mi stavo operando mi ha detto che non se la sentiva perché detto che poteva spaccarsi la mandibola, quindi dice inutile che io gli faccia questo per poi rovinare la mandibola, no, ne mettiamo quattro, resistono lo stesso eccetera eccetera, ma l'hanno messo quattro decidi sì. Comunque vabbè, già non hai problemi, già ferma, sì. Sì, no, non si può, è come se fosse un TV, non ti accorgi manco di avere altro. È normale, la senti tranquilla, non ti accorgi di nulla. Ascolta una cosa, per quanto riguarda la pulizia? Per quanto riguarda la pulizia l'ho fatta, però la cosa brutta che hanno fatto a me è che invece di avvitarmi come gli avevo chiesto io, ha fatto come ha voluto lui, me li ha incementati, mi ha messo i perni nella mandibola. Però invece che nei buchi, invece che mettere le viti per abbullonarli, ha messo il cemento. Quindi cosa succede? Questo cemento tiene un bel, quando tu li devi pulire, soffri un bel per fartela togliere questa roba qua, perché la deve togliere, c'è un artretto, dum, ti dai colpi, e sembra che ti ritrattare la mandibola. Ah, non ce li hai avvitati, ce li hai incementati tu, cazzo. Sta pigliando burumba allora, perché avvitati è molto molto meglio secondo me. Insomma, a me non mi hanno fatto problemi questi responsabilità. L'ho anche fatto la pulizia, me li ha tolti, mi ha fatto la pulizia, già sono fatto me li ha ricattati. E la pulizia si fa ogni 6 mesi, io l'ho sempre fatta, anche in diretti normali la faccio ogni 6 mesi. Comunque la fai? Certo, forse che la faccio, no, ti viene l'alito cattivo, ti si blocca la roba, Ah, ho capito, ho capito, purtroppo. E vabbè, l'alito cattivo vi la gente buio, vi i denti sani. Va. Tutto dipende dallo stomaco comunque, non dai denti. Poi magari non se li lava bene, cosa ne so. No, ma dipende anche dai denti, perché ci marcisce la roba che ti permette, se no se è una cosa che non si può togliere, che viene male a togliere, se ti si marcisce da te. Beh, certo. Sì, sì. Ah, ogni 6 mesi quanto paghi? Oh, non me lo ricordo quanto mi ha preso. La verità, non me lo ricordo. Però me l'ha fatta perché poi mi ha messo, allora praticamente è successo così. Prima ti mettono il cemento, quello provvisorio, no? Dopo il provvisorio, se tu non hai problemi di masticazione, di cosa, poi perché mettono quello fisso. E me l'ha fatta tra il cemento provvisorio e il cemento fisso, quindi me l'ha fatta, era compreso, forse era il prezzo che avevo pagato. E comunque i 12.000 euro li ho pagati. Infatti per quello, hai pagato troppo anche, 12.000 euro, va. Cari sono. Sono molto cari, ma vabbè, molta gente preferisce quella mobile perché dicono che te la puoi levare, te la puoi pulire tu e fare tu. Poi no, se dici questi fissi lascia il tempo che trovano. Aspetta già che arrivo subito. Sì, sì, non è così, dai, non è così. Quella mobile che ti va a musica la mela, ti si attacca la mela. Magari a ciuffetti ti pesci la ventiera, vieni. Lo metterai in collibullata. No, io... Allora, io praticamente l'ho portata quella lì, perché? Perché tra, quando mi ha tolto i denti, mi ha dato quella provvisoria, no? Che te la lasci là quando ti finiscono proprio quella che ti devono mettere di più, no? Per non stare senza denti ti fanno quella, la paghi, per forza che la paghi. Però l'ho avuta quella lì e ci mettevo, come si chiama, quella colla che si mette sotto per attaccarti i denti, adesso non mi viene, Cookident, quello lì è il migliore, che ci ce ne sono 1000, ma il Cookident è il migliore. Mettevo qui il Cookident e non si muoveva, ma il primo periodo andava a musicare la cosa e ti si attaccava, andando un mosso alla mela ti rimaneva incastrato. Una volta me ne è uscita, ma proprio me ne ingui. Picchia, te ne avevi cugliato questa cosa, mica è manna. Ma ti fa affogare, però. Se ti fai ancora ti fa affogare. E vabbè, comunque, no, va bene, dai, per una persona giovane, un anziano può portarla, ma una persona giovane che si mette a prendere una lentiera così, provvisoria te la fanno anche all'ospedale. Tu vai all'ospedale e te la fanno con la mutua, te la fanno a provvisoria. Uno o due ne hanno fatto, lo so. Tramite la Caritas. Ehi, aspetta un attimino, ho già che vado a controllare il cane, dai. Come si appiccia in terra, un attimo. Io provvisoriamente me l'avrei fatta così all'ospedale, poi quando invece mi avrei fatta così. No, aspetta, sono un attimo, arrivo. Sono tornato già, no, mi ha chiamato il mio vicino di casa, mi doveva dare carciofi. Anche a me mi sta, mi sembra di proprio. Mi ho regalato la cucca di canarini alla nipotina al compleanno, gli ho regalato la gabbetta con due canarini. E Allegrida si sono sentite da qua quando gli ha visti, gli ha detto vai e prendi quella tazzina di babbo che se la lasciate in stanza che me la porti a lavare, lì è entrata e ha messo i canarini. Mi ha zittito. No, aspetta, mi chiamo intanto, che stamattina ho preso la macchina solo per cambiare le spatole di tesi cristallo, una persona anziana, un appunto, e quindi ogni tanto mi fa qualche regalo. Adesso siccome ho già parecchi avvalitori, ho parlato del cacciocchio, ma mi ha dato un bel... A stanotte, due me li ciullo crudi. Già sono buoni, quindi con l'olio e sale. No, l'altro giorno mi ha portato mandarini, mandaracci, limoni, cavoli, tre vasi di pietole. Oh, già me ne avrega poca di cose. Grazie, basta, cazzo. Non c'è bisogno, non ti sentire in debito, io glielo potuti regalare perché la nipotina veniva sempre a casa per i dolci, mi piaceva, io ho visto che mi piaceva, il compleanno gli ho voluto regalare quelli, capito? Ma sai, con la sua schienazione poi sento in debito. A volte le faccio la battuta, schifo vado di questa macchina. Marisa si chiama, una donna. Marisa, che ruolo del tuo capito?